ho visto un servizio televisivo nel quale si parlava di un famoso uomo dello sport sposato e con due figli, teso a raccontare una sua grandissima storia d'amore. Una donna sposata, anche lei con due figli, lo andò a trovare dopo una sua ennesima vittoria, proponendogli di andare a letto assieme. L'uomo accettò e da quella sera, secondo l'opinione pubblica, nacque una grande storia d'amore. Ma, come vedremo, più che a una storia d'amore, siamo di fronte ad una grande storia di passione sessuale. Il punto di divisione di queste opinioni sta solo in una parola che viene usata con la frequenza del sale, cioè la parola amore. Quando due fanno sesso, si dice che fanno l'amore. Non ci sarebbe nulla di sbagliato in questa espressione, se non fosse che viene usata una parola sbagliata, nel posto sbagliato. Anche se è quasi offensivo per alcuni, dobbiamo accettare la realtà che il sesso è sesso, e che di amore nel sesso non c'è proprio niente. La sessualità ci viene data dalla nascita. Inizia generalmente a manifestarsi nel periodo della riproduzione. Come gli animali. Nel maschio, soprattutto nei giovani, l'istinto della sessualità è sempre presente, sia che dorma, sia che sia sveglio, sia che lavori, sia che non faccia nulla. È evidente che il fatto che provi istinti sessuali non significa che ami. Come gli animali. In seguito conosce una ragazza, le viene incantato e i suoi istinti sessuali vengono risvegliati alla potenza. Ma ancora questo non significa che ami la ragazza. Anzi, al contrario. Se ama veramente la ragazza, aspetta e la rispetta, attendendo di esercitare il suo forte impulso di sessualità al momento giusto, e cioè nel matrimonio. Perciò la prima manifestazione d'amore non è fare sesso, ma aspettare e rispettare. Proprio perché noi abbiamo cambiato la parola sesso con amore, i giovani trovano logico fare sesso come manifestazione d'amore. Noi pretendiamo dai giovani ciò che noi non possiamo dare come esempio. Noi usiamo parole sbagliate. E pretendiamo dai ragazzi che si comportino nel modo giusto. Noi abbiamo messo l'etichetta su di un contenuto che non corrisponde al nome dell'etichetta e vogliamo che i nostri giovani ci credano. Il giovane, che ancora non riesce a distinguere il sesso dall'amore, cade in una trappola che noi stessi abbiamo preparato. Fare sesso non è sinonimo di fare l'amore, piuttosto che puntare il dito verso una sessualità irresponsabile dei ragazzi, dobbiamo batterci il petto. Abbiamo rovinato la vita di troppi giovani con una parola ingannatrice. Dobbiamo chiamare la sessualità con il suo nome. Dobbiamo dare al sesso il suo vero significato. Sostenere che due giovani fanno l'amore quando fanno sesso significa incoraggiarli a continuare su di una strada sbagliata. Perché si dovrebbe smettere di fare una cosa così bella e importante come l'amore? Non è forse l'amore la necessità più importante che una persona ha? Se si rubasse, si mentisse, sarebbe normale cercare di smettere, ma non vi è nessuna ragione per smettere di fare la cosa più desiderabile. Non sembra? Se invece noi dicessimo che due fanno sesso quando fanno sesso, non facciamo altro che chiamare con il suo nome ciò che stanno facendo. Nessuno si illude, nessuno rimane deluso, anzi, si vive più intensamente il lato umano dell'esperienza. Certo. Affermando che due persone di sesso opposto fanno sesso non si vuole sostenere che agiscono come due animali, che sono in preda solo ad istinti sessuali perché l'uomo e la donna sono stati creati ad immagine di Dio. Proprio per questa caratteristica, unica nella creazione, l'uomo e la donna sono in grado di trasmettere l'esperienza sessuale con una motivazione che va oltre al lato naturale e tecnico. Per un uomo e una donna, l'esercizio della sessualità è un'esperienza che comporta tanti elementi morali ed affettivi. Il sesso in sé non è morale, non è né buono né cattivo. A renderlo giusto sono le motivazioni e il contesto nel quale viene esercitato. Dire che si fa l'amore quando si fa sesso significa spogliare di significato un'espressione di alto contenuto etico. In un matrimonio si fa l'amore quando si sopporta, si serve, si cerca il bene del partner, quando le cose dell'altro sono più importanti delle nostre, quando si vuole mantenere fede ad un patto. Questo è l'amore. Quando arriva il momento di praticare il sesso, si fa sesso. Certo. È innegabile che anche in quel momento chi ama esprima una sessualità adeguata, ma è l'amore che usa lo strumento del sesso per amare, e non l'impulso sessuale che si trasforma in amore. Nella sessualità non ci è amore. È l'amore che fa uso della sessualità. Dire che chi fa sesso fa l'amore significa capovolgere i valori che Dio ha creato. L'istinto sessuale ci è stato dato per la propagazione della specie, mentre l'amore trasforma questo forte impulso e a volte disturbo dei sensi in un atto dimostrativo di affetto e di tenerezza. Conosco una barzelletta in merito alla sessualità che la dice più lunga di tanti discorsi. Un uomo va dal suo dottore per chiedere un consiglio in merito ad un problema sessuale. È povero, è padre di 7 figli e vorrebbe che sua moglie non rimanesse più incinta. Il dottore, dopo una breve riflessione, gli consiglia di pensare, quando sta con sua moglie, a tutti i figli che ha e che un altro sarebbe di troppo. Il buon padre di famiglia torna a casa tutto contento, ma un mese dopo annuncia al dottore che sua moglie è incinta. «Come?» esclama un po' arrabbiato il dottore. «Non ha fatto quello che le ho detto?» «Sì, dottore», replica il povero uomo, «ho fatto quello che mi avete detto, ma cosa vuole?» In quel momento io penso di poter mantenere una 20 di figli. Questa barzelletta mette in evidenza un chiaro aspetto della sessualità. Inutile nascondere la sua presenza, inutile nascondere la sua potenza, inutile nasconderne anche la nostra dipendenza. Gesù disse che non tutti sono in grado di vivere senza esercitare la sessualità. Proprio perché questa sessualità è sempre presente, Gesù specificò che l'adulterio non consiste solo nell'atto, ma che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Sono profondamente convinto che Gesù non sia venuto per creare dei sensi di colpa, ma per insegnare e specificare la legge data nell'Antico Testamento. Credo che chiunque di fronte a questa affermazione di Gesù si senta in colpa anche quando non è necessario. Perciò è saggio prenderla in esame. La sessualità ci è stata data come istinto fra tanti altri istinti. L'istinto della fame, per esempio, ci accompagna dalla culla alla tomba. Trovare i morsi della fame non è né buono né cattivo, perciò non è concupiscenza avere fame. Inoltre, uno prova fame all'improvviso, ha fame nelle più disparate ore del giorno. Se poi ad un tratto vede in una vetrina una bella torta, il suo istinto è risvegliato. Ma anche in questo caso non possiamo parlare di concupiscenza, perché è stato semplicemente risvegliato un istinto assopito. Si trasforma in concupiscenza se davanti a quella vetrina inizia a fantasticare e bramare. Nello stesso modo è la sessualità. La sessualità è un istinto che ci accompagna per la maggior parte della nostra esistenza, per questo la sua voce non è peccato. Inoltre, se come uomo vedo una bella ragazza, il mio istinto può essere risvegliato, ma non si può parlare ancora di adulterio se non si desidera l'oggetto in questione. Il normale istinto si trasforma in concupiscenza se nel guardare una donna si desidera di possederla facendo le dovute fantasticherie. E questo è quello che Gesù voleva intendere. Non ogni impulso sessuale è peccato. Fare l'amore. Con una simile espressione usata impropriamente, ci siamo tirati la zappa sui i piedi. Vogliamo legalizzare un errore. Vogliamo nascondere la grande responsabilità che il sesso comporta. Non vogliamo dare il giusto significato alla parola amore. Dobbiamo sottolineare che fare sesso non significa automaticamente fare l'amore, ma che l'amore, per essere tale, prima di tutto è rispetto, attesa, pazienza, è sofferenza, è perseverante, è altruista. Il vero amore in un matrimonio può arrivare anche a non fare sesso, proprio il contrario di quello che noi chiamiamo fare l'amore. Mentre il vero amore in una relazione tra giovani è non fare per nessun motivo sesso, proprio il contrario di quella che noi chiamiamo la prova d'amore. Tutto è stato capovolto. Ragioniamo al contrario e pretendiamo che i nostri sentieri siano diritti. Siamo vittime dei nostri impulsi sessuali e reclamiamo una società giusta. Ecco perché gli istinti sessuali devono essere i più controllati e dominati. Noi non diciamo che facciamo l'amore se mangiamo, se dormiamo, se facciamo i nostri interessi, istinti, questi, più che legittimi, ma solo quando si fa sesso. Evidentemente, per chi è in grado di comprenderlo, l'espressione facciamo l'amore nell'ambito sessuale rivela quanto ci sia di sconvolto nella sessualità. Il lupo si è trasformato in agnello, il drago si è trasformato in un docile animale domestico. Noi pensiamo di gestire la sessualità, mentre sono gli istinti sessuali che hanno distorto i nostri ragionamenti, al punto che chiamiamo storie d'amore ogni relazione sessuale illecita. In uno spot pubblicitario vi erano raffigurati due persone malate di AIDS con sotto la scritta: l'unica loro colpa è che si sono amati. Siamo caduti nel baratro del piacere fine a se stesso, al punto da aver pervertito anche ogni espressione sessuale umana. Cadere vittima del dolore è umano, e per questo Giobbe, rivolgendosi agli amici, dice: pietà deve l'amico a colui che soccombe. Ma rimanere schiavi del piacere è dimostrazione di estrema bassezza. 2000 anni fa, l'apostolo Paolo profetizzò che negli ultimi tempi gli uomini sarebbero stati amanti del piacere anziché di Dio. Questa espressione ha una valenza generale, ma è più che mai appropriata nel campo sessuale. Per non far parte di questa categoria vi è un solo metodo: amare Dio più del piacere. Quando si ama Dio, l'espressione fare l'amore trova la sua giusta applicazione, perché l'amore di Dio è che osserviamo i suoi comandamenti. 1 Giovanni 5, 3. Questo è il vero amore. Questo è la vera espressione d'amore. Questo è il vero significato di fare l'amore. Luglio 2004, Ellero.